train station, the crossfire sights of destiny. Now it's all gone slow motion, everything slow motion. The light's gone out, I feel no more emotion. I'm all out of emotion, I'm out of emotion. On these streets where I play, then these trains that I take, I saw fire. On these streets where I play, then these trains that I take, I saw fire. But now I've seen the city change in oh so many ways, since the days of fire, since the days of fire. Prima delle ore 21 inizia prove tecniche di trasmissione. Uno spazio che andrà avanti sino alle ore 22:30 circa. Cominciamo con il dare il nostro sito, che è www.ondarossa.info, anche per chi ci sta ascoltando via web. Come già sapete, Radio Onda Rossa sta trasmettendo in DAB anche nella provincia di Terni e presto si allargherà altrove. Lo storico numero telefonico persiste dello 06 49 17 50. Fino a settembre ci sarà la nostra campagna di crowdfunding, fondamentale per l'esistenza di questi spazi di